A quel tempo era certamente una persona felice. Avere 27 anni senza nessun vizio inveterato, con la generosa determinazione che il proprio operare fosse per il bene comune e con idee nel cervello che rendevano la vita interessante indipendentemente dal cultus della carne di cavallo e di altri riti mistici dell'osservanza costosa, che le 800 sterline rimaste gli dopo essersi comprato la clientela certamente non sarebbero state sufficienti a pagare per molto tempo. Era un punto di partenza che rende la carriera di molti uomini un bel argomento su cui scommettere. Se ci fossero dei signori dediti a quel divertimento che potessero apprezzare le complicate possibilità di un arduo intento, con tutti i possibili intralci, appoggi del caso, con tutte le finezze dell'equilibrio interiore, per cui un uomo nuota e raggiunge il suo scopo o altrimenti viene trascinato a fondo. Il rischio resterebbe, anche con una conoscenza approfondita del carattere di Lydgate, perché anche il carattere è soggetto a un processo e a uno svolgimento. L'uomo era ancora in formazione, sia il dottore di Middlemarch che l'immortale scopritore, e c'erano sia virtù che difetti passibili di ridursi o di espandersi. I difetti spero non saranno un motivo per non concedergli il vostro interesse. Fra i nostri preziosi amici, non c'è forse qualcuno un po' troppo fiducioso in se stesso e disdegnoso, la cui mente illustre è un po' macchiata di volgarità? Qualcuno che qui è un po' a corto e là è pieno di pregiudizi locali, o le cui migliori energie sono soggette a imboccare il canale sbagliato sotto l'influsso di sollecitazioni transitorie? Tutte queste cose si potrebbero sostenere a sfavore di Lydgate. Ma allora, sono come le perifrasi di un predicatore educato che parla di Adamo e non vorrebbe menzionare nulla di penoso per gli intestatari dei banchi della Chiesa. I particolari difetti da cui vengono distillati, questi sottili concetti di ordine generico, hanno fisionomie, dizione, accento e smorfie distinguibili, sostengono delle parti in drammi diversissimi. Le nostre vanità sono diverse come i nostri nasi. Ogni presunzione non è la stessa presunzione, ma varia a seconda dell'inezia della costituzione mentale per cui uno di noi è diverso da un altro. La presunzione di Lydgate era di tipo arrogante, mai leziosa, mai riguardosa, ma salda nelle sue pretese enormi e sprezzante in modo benevolo. Era solito fare molto per i sempliciotti perché era addolorato per coloro e si sentiva del tutto certo che non avrebbero avuto alcun potere su di lui. Quando era a Parigi aveva pensato di unirsi ai Sansimoniani allo scopo di farli rivoltare contro qualcuna delle loro dottrine. Tutte le sue pecche erano contrassegnate da tratti affini ed erano quelle di un uomo che aveva un tono baritonale, abiti che gli stavano bene addosso e che persino nel comune gesticolare aveva un'aria di distinzione innata. Dove erano allora quei nei di volgarità? Chiede una signorina incantata da quella grazia piena di sprezzatura. Come poteva esserci una qualsiasi volgarità in un uomo così ben educato, così ambizioso di raggiungere una distinzione sociale, così generoso e singolare nel suo modo di concepire il dovere sociale? Allo stesso modo in cui può esserci della stupidità di un uomo di genio se lo prendete alla sprovvista sull'argomento sbagliato, o in cui tanti uomini che hanno la miglior buona volontà di affrettare l'avvento del progresso sociale potrebbero essere ispirati in malo modo a immaginare i piaceri più frivoli, incapaci di andare oltre la musica di Offenbach o il brillante gioco di parole dell'ultimo spettacolo di varietà. I nei di volgarità di Lydgate stavano nell'aspetto dei suoi pregiudizi che, a dispetto delle sue nobili intenzioni, per metà erano dello stesso genere di quelli che si trovano nei comuni mortali, quella distinzione mentale che apparteneva al suo ardore intellettuale che non penetrava nel suo sentire e nei suoi gusti in materia di mobili e donne, o nel desiderio che si sapesse senza che lui lo dicesse che era di famiglia migliore di altri medici di provincia. Al momento attuale non intendeva pensare a dei mobili, ma qualora lo avesse fatto c'era da temere che né la biologia né i progetti di riforma lo avrebbero innalzato al di sopra della volgarità di ritenere impensabile che i suoi mobili non fossero dei migliori. Quanto alle donne, una volta era già stato trascinato a capofitto in una follia travolgente, che secondo lui avrebbe dovuto essere l'ultima, dato che il matrimonio dopo un certo periodo naturalmente non sarebbe stato più così travolgente. Per coloro che vogliono conoscere Lydgate, sarà bene sapere quale fosse quel caso di follia travolgente, perché esso può essere preso a esempio del suo discontinuo altalenare nella passione a cui era portato, unitamente alla gentilezza cavalleresca che contribuiva a renderlo moralmente amabile. La storia si può raccontare in poche parole. Accadde quando studiava a Parigi e proprio nel periodo in cui, oltre all'altro lavoro, si interessava di alcuni esperimenti galvanici. Una sera, stanco dei propri esperimenti e non riuscendo a ricavare i dati di cui aveva bisogno, lasciò le sue rane e i suoi conigli a riposare un po' dopo la logorante e misteriosa elargizione di scosse e si recò a terminare la serata al teatro di Port Saint-Martin, dove si rappresentava un melodramma che aveva già visto varie volte, attirato non dal frutto dell'ingegnosa collaborazione degli autori, ma da un'attrice che aveva la parte di pugnalare l'amante, avendolo confuso col malintenzionato duca della pièce. Lydgate era innamorato di questa attrice, come può esserlo un uomo di una donna con la quale non si aspetta di poter mai parlare. Era provenzale, occhi scuri, profilo greco e una maestosa forma a tutte curve. Era dotata di quel genere di bellezza che ha in sé un dolce senso di maternità anche in gioventù, e la sua voce era un tenero tubare. Era giunta a Parigi da poco e aveva fama di donna virtuosa. Il marito recitava con lei nella parte dello sfortunato amante. La sua recitazione era non migliore di quello che ci si sarebbe aspettato, ma il pubblico era soddisfatto. Ora, l'unico svago di Lydgate era di andare a vedere questa donna, proprio come si sarebbe potuto gettare per un po' su una distesa di viole, al soffio del dolce vento del sud, senza alcun danno per il suo galvanismo a cui sarebbe ritornato fra poco. Ma quella sera il vecchio melodramma si risolse in una nuova catastrofe. Al momento in cui l'eroina doveva fingere di pugnalare l'amante ed egli doveva cadere con grazia, la moglie pugnalò davvero il marito, che cadde come corpo morto. Uno strillo violento attraversò il teatro e la provenzale cadde svenuta. Il dramma richiedeva uno strillo e uno svenimento, ma anche lo svenimento questa volta era vero. Lydgate fece un balzo e si arrampicò. Neanche lui si rese conto come, sul palcoscenico, e diede un aiuto attivo. Fece conoscenza con la sua eroina, trovandole una contusione al capo e sollevandola dolcemente fra le braccia. Tutta Parigi fu messa a rumore della storia di quella sta morte. Era un assassinio? Alcuni dei più calorosi ammiratori dell'attrice furono inclini a credere nella sua colpevolezza e perciò tale era il gusto di quei tempi. Piacque loro maggiormente, ma Lydgate non fu tra questi. Egli sostenne con ardore la sua innocenza e la vaga passione impersonale che aveva provato, prima per la sua bellezza. Ora si era trasformata in una devozione per la sua persona e in tenera preoccupazione per il suo destino. L'idea di un delitto era assurda, non si poteva scoprire alcun movente, poiché si sapeva che i due sposi stravedevano l'uno per l'altra. E non era senza precedenti il fatto che un accidentale scivolone avesse portato con sé tali gravi conseguenze. L'indagine legale terminò con il rilascio di Madame Law. Lydgate ormai aveva avuto molti colloqui con lei e l'aveva trovata sempre più adorabile. Lei parlava poco, ma questo non faceva che aumentare il suo fascino. Era malinconica e sembrava grata. La sua presenza era sufficiente come quella della luce serale. Lydgate era pazzamente bramoso del suo affetto ed era geloso di chiunque altro per paura che la conquistasse e le chiedesse di sposarlo. Ma invece di riprendere a recitare Le Port Saint-Martin, dove sarebbe stata tanto più calorosamente accolta proprio a causa dell'episodio mortale, partì da Parigi senza preavviso, abbandonando la sua piccola corte di ammiratori. Forse nessuno andò molto in là con le ricerche, tranne Lydgate, il quale sentiva che tutta la scienza era arrivata a un punto morto, mentre immaginava l'infelice Laure, colpita da un dolore sempre presente, vagabonda e priva di una persona fedele che la confortasse. Le attrici nascoste, tuttavia, non sono così difficili da trovare come qualche altro dato nascosto, e non passò molto che Lydgate venne a sapere che Laure aveva preso la via di Lyon. Finalmente la trovò che recitava con grande successo d'Avignon, con lo stesso nome, con un aspetto più maestoso che mai, nella parte di una moglie abbandonata che portava il figlio in braccio. Le parlò dopo la rappresentazione, fu ricevuto con la consueta calma che gli parve stupenda, come le chiare profondità dell'acqua, e ottenne il permesso di visitarla il giorno successivo, quando aveva ogni intenzione di dirle che l'adorava e di chiederle di sposarlo. Sapeva che questo era come l'impulso improvviso di un folle, in disaccordo persino con le sue consuete debolezze. Non importava, era l'unica cosa che era risoluto a fare. Evidentemente aveva due personalità e queste dovevano imparare a conformarsi l'una all'altra e a sopportare i reciproci ostacoli. Strano come alcuni di noi, con rapida visione alternativa, sgorgano al di là delle proprie infatuazioni e come proprio al culmine dei vaneggiamenti vedano l'ampia pianura dove il loro io costante si sofferma e li aspetta. Essersi avvicinato a loro con una qualsiasi richiesta che non traboccasse di tenera reverenza avrebbe significato semplicemente una contraddizione di tutto ciò che provava per lei. «Avete fatto tutta questa strada da Parigi per trovarmi?» gli chiese il giorno successivo, seduta davanti a lui con le braccia incrociate e guardandolo con occhi che sembravano sorpresi come quelli di un ruminante non domo. «Tutti gli inglesi sono così?» «Sono venuto perché non potevo vivere senza cercare di vedervi. Siete sola. Vi amo. Voglio che acconsentiate ad essere mia moglie. Aspetterò, ma voglio che mi promettiate che sposerete me e nessun altro.» Lor lo guardò in silenzio, con una radiosità malinconica da sotto le sue grandi palpebre, finché egli fu colmo di un'estatica certezza e si inginocchiò accanto alle ginocchia di lei. «Voglio dirvi qualcosa», disse lei con un tono titubante, tenendo le braccia conserte. «Sono veramente scivolata col piede.» lo so», disse Lydgate in tono di disapprovazione. «È stato un fatale incidente, un terribile colpo di calamità che mi ha legato ancora più a voi.» Di nuovo Lord tacque per un po' e poi disse lentamente: «L'ho fatto apposta.» Lydgate, forte com'era, impallidì e si mise a tremare. Parvero passare alcuni momenti prima che si alzasse e restasse a una certa distanza da lei. «C'era un segreto allora?» E gli disse infine addirittura con veemenza: «Era brutale con voi, lo odiavate?» «No, mi stancava. Era troppo innamorato. Voleva vivere a Parigi e non nel mio paese. Questo non mi andava.» «Gran Dio!» disse Lydgate con un gemito di orrore. «E voi avete progettato di assassinarlo?» «Non l'ho progettato. Mi è venuto nel dramma. L'ho fatto apposta.» Lydgate rimase muto. E inconsapevolmente si spinse il cappello in testa mentre la guardava. Vide questa donna, la prima che egli aveva fatto oggetto della sua giovane adorazione, fra una folla di criminali stupidi. «Voi siete un bravo giovanotto», disse lei, «ma i mariti non mi piacciono, non ne avrò mai un altro.» 3 giorni dopo, Lydgate era tornato al suo galvinismo nel suo appartamento di Parigi, credendo che per lui le illusioni fossero finite per sempre. Non divenne insensibile perché fu salvato dall'abbondante generosità del suo cuore e dalla fiducia che la vita umana potesse essere resa migliore. Ma aveva più che mai motivo di fidarsi del proprio giudizio, ora che era così esperto, e da allora in poi avrebbe considerato la donna con occhio strettamente scientifico, senza nutrire attese, tranne quelle che fossero giustificate in precedenza. Era probabile che nessuna Middlemarch avesse una tale idea del passato di Lydgate, quale è stato qui debolmente tratteggiato, e in effetti quei rispettabili cittadini non erano dediti, più degli altri mortali in genere, a qualsiasi tentativo impaziente di immaginarsi ciò che non cadeva sotto i loro sensi. Non solo le giovani vergini di quella città, ma anche uomini dalla barba grigia spesso non vedevano l'ora di congetturare in che modo una nuova conoscenza potesse essere piegata ai loro disegni, paghi di una conoscenza assai vaga del modo in cui la vita l'aveva plasmata per quegli scopi. Middlemarch, infatti, non contava di ingoiare Lydgate e di assimilarlo assai facilmente. Capitolo 16. La questione se Mr. Tyke dovesse venire nominato cappellano stipendiato dell'ospedale era un eccitante argomento di conversazione per gli abitanti di Middlemarch. E Lydgate ne sentì discutere in un modo che mise assai in luce il potere esercitato in città da Mr. Bulstrode. Il banchiere evidentemente dominava, ma vi era un partito di opposizione e persino fra i suoi sostenitori vi era qualcuno che lasciava intravedere che il proprio sostegno era frutto di un compromesso e che dichiarava francamente che la situazione generale, e in particolare gli incidenti del commercio, imponevano di reggere una candela al diavolo. Il potere di Mr. Balstroda non era dovuto semplicemente al fatto che questo era un banchiere di provincia che conosceva i segreti finanziari della maggior parte dei commercianti della città e poteva influire sulle fonti del loro credito. Questo potere era rafforzato da un'attività di beneficenza che era a un tempo sollecita e severa, sollecita a concedere obblighi e severa nel tener d'occhio i risultati. Si era assunto come infaticabile lavoratore sempre al proprio posto la responsabilità principale nell'amministrazione delle opere pie e cittadine e i suoi atti di beneficenza personale erano minuziosi e numerosi a un tempo. Si prendeva assai cuore di collocare come apprendista Teg, il figlio del calzolaio, e poi osservava l'assiduità di Teg alle funzioni religiose. Difendeva Mrs. Stripe, la lavandaia, contro le ingiuste estorsioni di Stubb a proposito dello spazio, dove questa asciugava i panni e lui stesso indagava su una calunnia contro Mrs. Stripe. I suoi piccoli prestiti privati erano numerosi, ma si informava minuziosamente sulle condizioni finanziarie altrui, sia prima che dopo. In tal modo un uomo, oltre alla gratitudine, acquista un dominio sulle speranze e i timori del prossimo, e il potere, una volta entrato in quella regione inafferrabile, si propaga diffondendosi in modo sproporzionato rispetto alle sue mire esterne. Era un principio di Mr. Balstrode acquistarsi il più potere possibile in modo da poterlo usare per la gloria di Dio. Era tormentato da una gran quantità di conflitti spirituali e di contrasti interiori per conciliare le proprie motivazioni e chiarire a se stesso cosa esigesse la gloria di Dio. Ma come abbiamo visto, le sue motivazioni non erano sempre apprezzate nella giusta misura. C'erano molte menti grossolane a Middlemarch, la bilancia della cui riflessione poteva pesare le cose solo in blocco, e queste nutrivano il forte sospetto che Mrs. Balstrode, siccome non riusciva a gustare la vita al loro modo, poiché mangiava e beveva così poco e si affannava per ogni cosa, si dovesse ingozzare in una specie di banchetto da vampiri con la sensazione del potere. L'argomento sul posto di cappellano spuntò fuori alla tavola di Mr. Vincey quando Lydgate era lì a cena e la parentela con Mr. Balstrode non impedì, come ebbe a notare, qualche osservazione critica anche da parte dello stesso padrone di casa, sebbene le ragioni portate da questi contro l'organizzazione proposta si reggessero interamente sulla sua antipatia per i sermoni di Mr. Tyke, che erano di carattere interamente dottrinario, e la sua preferenza per Mr. Fairbrother, i cui sermoni erano esenti da questa macchia. A Mr. Vincey andava molto a genio l'idea che il cappellano avesse uno stipendio, supposto che venisse nominato Mr. Faithbrother, che era il miglior ometto che si fosse mai visto, il miglior predicatore del mondo e per giunta socievole. Che linea di condotta seguirete allora? Chiese Mr. Cleekly, il medico legale, grande compagno di Mr. Vincey nelle battute di caccia. Sono proprio contento di non essere nel comitato direttivo adesso. Voterò perché la faccenda sia demandata ai direttori e al consiglio dei medici insieme. Scaricherò un po' della mia responsabilità sulle vostre spalle, dottore, disse Mr. Vincey, rivolgendo prima un'occhiata al dottor Sprague, il decano dei medici della città, e poi a Lydgate, che gli sedeva di fronte. Spetterà a voi, signori medici, consultarvi su che genere di pozione nera prescriverete. Mr. Lydgate? So poco di entrambi, disse Lydgate, ma in generale le nomine tendono a diventare troppo una questione di simpatia personale. L'uomo più adatto per un posto particolare non è sempre il tipo più simpatico più gradito. Delle volte, se voleste varare una riforma, l'unico modo sarebbe quello di mandare in pensione i tipi simpatici che piacciono a tutti e metterli fuori discussione. Il dottor Sprague, che era considerato il medico di maggior peso, sebbene il dottor Minchin di solito si dicesse che aveva più acume, cancellò ogni espressione nella sua gran faccia tozza e fissò il proprio bicchiere di vino mentre Lydgate stava parlando. Tutto ciò che non era problematico e sospetto in questo giovanotto, per esempio una certa ostentazione di idee nuove e una tendenza a sconvolgere ciò che era stato risolto e dimenticato da quelli più anziani di lui, era decisamente sgradito a un medico che si era fatto una reputazione 30 anni prima con un trattato sulla meningite di cui almeno una copia, quella dell'autore, era relegata in pelle. Per parte mia, provò un po' di comprensione per il dottor Sprague, l'autocompiacimento è un genere di proprietà non tassato che è assai sgradevole trovare deprezzato. L'osservazione di Lydgate, tuttavia, non incontrò l'approvazione della brigata. Mr. Vincey disse che se avesse potuto fare a suo modo non avrebbe messo delle persone sgradite in nessun posto. Al diavolo le vostre riforme, fece Mr. Clickley, non c'è truffa maggiore al mondo. Non si sente mai parlare di una riforma che non sia un qualche trucchetto per insediare uomini nuovi. Spero che non siate uno degli uomini dell'Ansett, Mr. Lydgate, che vogliono togliere l'ufficio di coroner dalle mani della professione legale. Le vostre parole mi sembrano andare in quel senso. Disapprovo, Wakelick, si intromise il signor Sprague, più di chiunque altro. È un tipo malintenzionato che vorrebbe sacrificare la rispettabilità della professione che tutti sanno dipendere dai collegi di Londra, per conquistarsi una certa notorietà. Ci sono uomini a cui non importa farsi fare la faccia nera a forza di calci, purché si parli di loro. Ma Wakeley qualche volta ha ragione, aggiunse il dottore con aria imparziale. Potrei citare un paio di casi in cui Wakeley ha ragione. Oh, beh, fece Mr. Kingsley, non biasimo nessuno che sostenga la propria professione, ma tornando a noi gradirei sapere in che modo un coroner deve giudicare le prove se non ha avuto una preparazione legale. Secondo me, disse Lydgate, la preparazione legale rende uno ancora più incompetente su questioni che richiedono conoscenze di un altro genere. La gente parla di prove come se si potessero davvero soppesare in una bilancia in mano a una giustizia cieca. Nessuno può dire quali siano delle prove valide su un qualsiasi argomento particolare, a meno che non conosca quell'argomento. Un avvocato non ne sa più di una vecchietta di fronte a un'autopsia. Come può conoscere l'azione di un veleno? Allo stesso modo si potrebbe dire che scandire la poesia vi insegnerà a scandire i raccolti di patate. Siete a conoscenza, suppongo, del fatto che non è compito del coroner eseguire l'autopsia, ma solo di raccogliere le prove del testimone medico, disse Mr. Kingsley con una punta di disprezzo. Il quale è molte volte quasi altrettanto ignorante del coroner stesso, disse Lydgate. I problemi di medicina legale non dovrebbero essere lasciati all'eventuale modesta competenza di un testimone medico e il coroner non dovrebbe essere uno che crede che la stricnina distrugga le pareti intestinali, se capita il caso che un generico ignorante gli dica questo. Lydgate aveva davvero perso di vista il fatto che Mr. Kingsley era il coroner di Sua Maestà e terminò chiedendo candidamente: Non siete d'accordo con me, dottor Sprague? Fino a un certo punto, se parliamo di distretti popolosi e della capitale, rispose il dottore, ma spero che trascorra molto tempo prima che questa parte del paese debba fare a meno dei servigi del mio amico Kingsley, anche se a succedergli dovesse venire l'uomo migliore della nostra professione. Sono certo che Vincey concorderà con me. Sì, datemi un coroner che sia un buon cacciatore, disse Mr. Vincey con aria gioviale, e secondo me sei più sicuri con un avvocato. Nessuno può sapere tutto. Le cose sono per la maggior parte punizioni di Dio. E quanto all'avvelenamento, beh, quello che bisogna conoscere è la legge. Andiamo, vogliamo raggiungere le signore? L'opinione personale di Lydgate era che Mr. Kingsley potesse essere proprio il coroner senza pregiudizi sulle pareti dello stomaco, ma egli non aveva inteso riferirsi a lui. Questa era una delle difficoltà quando ci si muoveva nella buona società di Middlemarch. Era pericoloso insistere su una buona preparazione come requisito necessario per qualsiasi impiego remunerato. Fred Vincey aveva definito Lydgate un saccente e ora Mr. Kingsley era incline a definirlo un presuntuoso, soprattutto quando nel salotto parve rendersi estremamente gradito a Rosamond, che aveva facilmente monopolizzato in un tête-à-tête, dal momento che Mrs. Vincey stessa era seduta al tavolo da tè. Questa non affidava nessuna funzione domestica alla figlia e il volto fiorente e benevolo di quella madre di famiglia con i nastrini troppo leggeri che scendevano fluttuando dalla sua bella gola e il suo modo di fare allegro con marito e figli era certamente fra le maggiori attrattive di casa Vincey, attrattive che rendevano ancora più facile innamorarsi della figlia. Il pizzico di volgarità semplice e inoffensiva di Mrs. Vincey metteva maggiormente in risalto la raffinatezza di Rosamond, che era superiore alle attese di Lydgate.